E finisce in carcere per tangenti il vicepresidente della Lombardia Nicoli Cristiani, sequestrati due cantieri della Brebemi e una cava destinata ad una discarica di amianto. Dall'Europa ok al piano Monti, protestano i sindacati per le misure sulle pensioni, cresce ancora la disoccupazione, un giovane su tre non ha lavoro. Via da Teheran, il personale inglese e norvegese dopo gli attacchi di ieri all'ambasciata britannica, chiusa la scuola francese. Buona giornata dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. È la seconda parte dell'operazione contro l'andrangheta fra Milano e Reggio Calabria, quella scattata questa mattina, la seconda parte di quell'operazione scattata invece nel luglio 2010. Ma ripercorriamo quanto successo in queste ore con Raffaella Calandra, che ringraziamo qui accanto a me. Allora Raffaella, intanto c'è il nome di un magistrato in questa inchiesta. E questo rappresenta uno degli elementi principali, anzi sono due i magistrati calabresi coinvolti, c'è un ufficiale della Guardia di Finanza di Monza e tutti costoro, questi rappresentanti delle forze dell'ordine, servivano per avere notizie riservate sulle indagini e regolarsi di conseguenza. C'è un avvocato e c'è un medico che servivano ad avere aiuti sulle società in affari nei videopoker. C'è un consigliere regionale per ottenere un'entratura politica in Calabria e poi ci sono amministratori locali da sostenere col voto per poter contare su qualcuno anche nei comuni dell'Interland Meneghino. Tocca i più vari e sensibili settori della vita pubblica l'inchiesta milanese contro l'andrangheta, che ha portato in carcere, oltre ad alcuni affiliati alla cosca Lampada Valle, già oggetto di un'indagine come dicevamo, e soprattutto una serie di professionisti che si vendono anche solo per viaggi, soldi o favori. E ad esempio soprattutto la nomina della moglie Alessandra Sarlo a commissario dell'ASL di Vibo Valentia, contestata a Vincenzo Giuseppe Giglio, giudice di Reggio Calabria, arrestato per aver aiutato i Lampada con un'imponente fuga di notizie, scrive il GIP milanese Giuseppe Gennari, che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare. Negli atti c'è anche un fax da lui spedito ad aprile con i risultati di verifiche fatte nei registri giudiziari sulle posizioni dei presunti affiliati. Incredibilmente permeabile, scrive ancora il giudice, nelle 804 pagine dell'ordinanza è il sistema di soggetti istituzionali e sconcertante, nota ancora, è la relativa facilità con cui gli indagati riescono a raccogliere informazioni sui loro procedimenti. Sono infatti ad esempio le serate rilassanti milanesi, cioè incontri in alberghi con prostitute stimate in 27.000 euro, i favori contestati ad un altro magistrato, Giancarlo Giusti, indagato, che non nega le frequentazioni con i Lampada, notano gli inquirenti, e anzi si meraviglia pubblicamente della loro veloce ricchezza. Piera. Ecco Raffaella, tu hai letto naturalmente le carte, le intercettazioni, ecco qualche altro particolare. Come sempre in questi casi le intercettazioni si rivelano uno strumento fondamentale. Ci sono ad esempio negli atti gli sms che uno della famiglia Lampada, Francesco, manda a proposito proprio delle informazioni ricevute dal giudice. Domani sera ci dà l'ambasciata il GUD, scrive in un messaggio. In un altro dice che bisogna avere pazienza perché lui sta controllando dalla A alla Z e io tengo fede perché se dice una cosa è chidda, leggiamo, l'ho testata con mani. O ancora ci sono le conversazioni del consigliere arrestato Morelli, a cui una volta un suo interlocutore confida che sta in ansia per lui perché ha letto delle indagini della Boccassini, quella con i capelli rossi, quella che era contro Berlusconi, si dicono, e un'altra volta ancora parla di quella stessa indagine del luglio scorso a Milano contro i Valle con l'ex presidente della regione Chiara Vallotti. Leggo sui giornali che ho portato qualcuno dei Lampada nel suo ufficio, dice Morelli a Chiara Vallotti. Sono basito, presidente, mentre mi trovo ristorato nello spirito perché di ritorno da Medjugorje. Invece a proposito dei politici, l'inchiesta del procuratore Boccassini contesta anche un'alterazione dell'esito del voto in Calabria, ma anche in elezioni locali lombarde col sostegno a propri candidati, nel rinnovo del consiglio di Cologno Monzese nel 2009 ad esempio, o nel sostegno ad Antonio Oliverio, già assessore alla provincia di Milano fino a maggio 2009. E tra le varie riunioni elettorali spunta anche una nel 4 settembre 2009 in cui insieme al consigliere arrestato, ad un medico ed alcuni rappresentanti della famiglia De Valle, gli inquirenti notano anche la presenza di un onorevole non ancora identificato. Ecco appunto, si parla di arresti della zona grigia a sostegno delle cosche, che è quella che rende davvero potenti e pericolose le cosche e tutte le mafie. E proprio di questo argomento avevamo parlato a ciascuno il suo un paio di settimane fa con lo stesso giudice che ha firmato questa ordinanza di custodia cautelare, che ha firmato anche le ultime inchieste principali contro l'andrangheta, Giuseppe Gennari, sentiamo. Sono relazioni che vengono intessute nel contesto sociale in cui opera l'organizzazione, che è ovviamente l'area assolutamente lombarda. Sono relazioni con il mondo delle banche, con il mondo delle istituzioni, con il mondo della politica, con il mondo delle professioni e con il mondo sanitario. Sono tutte relazioni di estrema utilità per l'organizzazione, perché sono quelle relazioni che consentono all'organizzazione di accedere poi a servizi ulteriori, il professionista che costituisce le società, il medico che o il responsabile infermiere che provvede al ricovero artificioso quando c'è bisogno di sottrarre qualcuno a una possibile cattura, il politico che può garantire appoggi nell'amministrazione locale. Queste relazioni sono sicuramente il punto di forza delle organizzazioni mafiose, soprattutto qui al nord. Corruzione e traffico organizzato di rifiuti illeciti, questi reati contestati a Franco Nicoli Cristiani, vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia ed esponente di spicco del PDL Lombardo, arrestato questa mattina all'alba dai carabinieri di Brescia. Questa è la seconda operazione importante di giornata. Il nodo è una presunta tangente da 100.000 euro volta ad ammorbidire i controlli. Le indagini erano partite la primavera scorsa e hanno portato oggi all'arresto di 9 persone oltre a Nicoli Cristiani. Il sequestro di una cava trasformata in discarica di amianto vicino Cremona, un impianto di trattamento rifiuti a Calcinate e due cantieri della Brebemi, uno a Cassano d'Adda, l'altro a Far Olivana Consola. Ma ricordiamo di che cosa stiamo parlando, cosa sia la Brebemi. 62 chilometri in tutto, la Brebemi collegherà Brescia, Bergamo e Milano. Sulla carta la fine dei lavori è prevista per la primavera del 2013, ma dall'omonima società hanno già fatto sapere che tutto potrebbe essere pronto già alla fine del prossimo anno. La storia della Brebemi parte da lontano. Alla metà degli anni 90 risale il primo studio di fattibilità. Ne sono poi seguiti altri due, poi l'iter autorizzativo e nel 2009 la partenza dei lavori. Avversata da tutto il mondo ecologista per l'impatto sul territorio e secondo alcuni per la sopraggiunta inutilità vista l'apertura della quarta corsia sull'autostrada A4 che ha decongestionato il tratto. Brebemi è anche il nome della società concessionaria che segue tutto il progetto, partecipata da Autostrade Lombarde, una serie di enti e banche. Il costo sulla carta è di 30 milioni al chilometro, il triplo rispetto alla media europea, un prezzo alto dovuto anche alle opere di compensazione ambientale. Il finanziamento doveva essere coperto interamente attraverso lo strumento del Project Finance, quindi capitale privato, ma la partenza dei lavori è stata assicurata grazie a un prestito della Cassa Depositi e Prestiti. Terminata la fase delle demolizioni degli immobili e della costruzione dei nuovi alloggi per chi è stato espropriato, allo stato attuale la realizzazione è tra il 25 e il 30%. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lasciamo la giudiziaria per andare alla pagina economica, cominciare dall'Ecofin in corso a Bruxelles. Stiamo entrando in un periodo critico di 10 giorni in cui dovremo completare e concludere la risposta europea alla crisi. A parlare così questa mattina il commissario europeo agli affari economici e monetari Olli Rehn, entrando a Bruxelles appunto ai lavori dell'Ecofin. Per l'Italia naturalmente partecipa il Premier, Ministro dell'Economia Mario Monti. Fra poco è attesa una conferenza stampa. Intanto ci colleghiamo con Bruxelles, con Dino Pesole del Sole 24 Ore. Buongiorno Dino. Buongiorno. Allora, la conferenza stampa non c'è ancora stata, quindi insomma grandi notizie al momento non dovrebbero essercene, dobbiamo attendere le parole di Monti, però intanto questa mattina i lavori sono proseguiti, che notizie hai? Sì, sono proseguiti, anche se quello che conta poi è la discussione che c'è stata ieri sera in sede di Eurogruppo, che in questi casi è quella decisiva, perché là sono rappresentati i ministri dell'Eurozona. Allora, per quanto riguarda l'Italia, c'è sicuramente da registrare una netta apertura di credito all'operazione che il governo Monti sta mettendo in pratica attraverso una manovra che dovrebbe oscillare attorno ai 20 miliardi e soprattutto col secondo punto all'ordine del giorno, che sono le misure per rilanciare la crescita. Da questo punto di vista c'è grande apertura sia da parte di Juncker che del commissario Rehn, ma ovviamente ora si attende il governo alla prova delle misure che dovrà effettivamente varare. Per quel che riguarda invece le misure che l'intera Europa sta mettendo in piedi per affrontare... Dove la sei crisi, Dino? Qui, si sente un gran rumore alle tue spalle. Perché certamente sono sul tappeto varie opzioni, e da come modificare l'impegno della BCE all'eventuale utilizzo dei fondi del Fondo Monetario al rafforzamento della governance chiesto dalla Germania. Sono tutti punti che tra un po' saranno un po' più chiari appena concluderanno i lavori qui al Consiglio Ecofin. Perfetto, grazie Dino. Allora ci risentiremo poi appunto quando i lavori saranno terminati e naturalmente le notizie saranno più chiare. Intanto abbiamo sentito come i provvedimenti italiani siano dunque alla prova dell'Europa, provvedimenti che fanno discutere anche a casa nostra. In diretta con noi Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, continua dunque il lavoro di Palazzo Chigi in vista del decreto di lunedì 5 dicembre, una manovra almeno da 20 miliardi di euro con l'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013, l'impatto sui conti potrebbe ulteriormente lievitare tenendo conto delle mutate prospettive di crescita del prodotto interno lordo e del continuo cambiamento dei tassi di rifinanziamento del debito. Nel provvedimento che nei prossimi giorni sarà illustrato a parti sociali e forze politiche ci sarà sicuramente l'intervento sulla casa con la reintroduzione dell'ICI e la rivalutazione degli estimi catastali. Entrerebbe tra le misure anche una mini patrimoniale nella misura del 2 per mille sopra il 1,5 milioni di euro. Ma gli interventi maggiori si dovrebbero registrare sul sistema previdenziale, dal blocco totale del recupero dell'inflazione per le pensioni per il 2012 alle pensioni di anzianità, aumenterebbe la soglia minima dei 40 anni di contributi ora necessari, l'asticella potrebbe salire a 41-43 anni. Ed ancora si ragionerebbe su un anticipo dell'aumento dell'età di vecchiaia delle donne nel settore privato, vi sarebbe anche l'incremento delle aliquote contributive per gli autonomi e l'estensione del sistema contributivo prorata per tutti. Decisamente critici i sindacati, no allo stop dell'adeguamento delle pensioni, dice la CGIL, basta fare cassa sulle spalle dei deboli, aggiunge la CISL, non si può andare oltre i 40 anni di contributi, spiega Angeletti della UIL. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, chiudiamo questa lunga pagina economica con uno sguardo ai mercati, lo facciamo come sempre con Deborah Rosciani. Giornata positiva in Europa, era partita in maniera molto diversa, gli indici in avvio stamattina avevano tutti il segno meno, poi cambio di marcia, Milano guadagna un punto, Londra più 0,89%, Parigi più 0,7%, Francoforte più 1,36%. Pensate che questa spinta al mercato è stata data da una decisione che è arrivata dalla Cina, perché la banca centrale cinese ha ridotto le riserve obbligatorie degli istituti di credito e questo appunto ha dato una spinta al mondo finanziario anche internazionale, quindi europeo. Poco fa è arrivato un dato americano, sono scese nel l'ultima settimana le richieste di mutui, è il primo atteso per questa giornata, ma l'appuntamento centrale sarà con il Beige Book, il rapporto periodico della Federal Reserve che verrà diramato questa sera. Un'occhiata al mercato obbligazionario, lo spread fra BTP e Bund, ancora una volta monitoriamo il differenziale di rendimento fra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, è sceso leggermente al di sotto dei 500 punti base pur avendo aperto la seduta a 505. Cosa è successo? Che c'è stata una nuova azione della Banca Centrale Europea che sta continuando a comprare titoli di Stato italiani. Il rendimento del BTP a 10 anni resta però sempre ben sopra la soglia d'allarme del 7% al 7,2%. Dal magistrato all'avvocato immanente la zona grigia dei professionisti al servizio dell''ndrangheta e dalle carte spunta il coinvolgimento di un onorevole. E finisce in carcere per tangenti il vicepresidente della Lombardia Nicoli Cristiani, sequestrati due cantieri della Brebeme e una cava destinata ad una discarica d'amianto. Dall'Europa, ok al piano Monti, protestano i sindacati per le misure sulle pensioni, cresce ancora la disoccupazione, un giovane su tre non ha lavoro. E ripartiamo dai disordini di Teheran. Il governo norvegese ha chiuso la sua ambasciata dopo l'attacco di ieri alla rappresentanza diplomatica britannica nella capitale iraniana, ma sentiamo com'è la situazione oggi, lo facciamo in diretta con Gigi Donelli. Sì, buongiorno Piera. Dunque, la situazione è quella del day after, appunto le scuole britanniche, francesi e tedesche che riducono le presenze, che non aprono le classi. La sensazione su scala più ampia è che appunto l'escalation delle tensioni e delle vendette tra Occidente e Iran non fa che aggravarsi. Bisogna ricordare che la manifestazione spontanea, lo dico sottolineando ironicamente, quella che può essere definita appunto solo da un comunicato ufficiale governativo una manifestazione spontanea, è caduta a un anno esatto di distanza dall'omicidio di una delle figure più importanti del programma nucleare iraniano. Gli iraniani accusano l'Occidente e i servizi segreti britannici indici di questo omicidio, che è avvenuto il 29 novembre dell'anno scorso, ma nel frattempo a luglio un altro alto scienziato iraniano è stato ucciso per le strade di Teheran. Insomma, siamo nel pieno di una spy story, non dimentichiamolo, 11 risoluzioni tra il 2003 e oggi, il dossier è quello nucleare, la storia delle relazioni molto complesse, molto tese tra l'Iran e le potenze occidentali ovviamente è molto molto più antica. Grazie a Gigi Donelli. E oggi in Gran Bretagna, andiamo dunque a Londra, è il giorno dello sciopero contro la riforma delle pensioni. Scioperano in 2 milioni da Dover alle Highlands scozzesi, da Newcastle a Belfast. Il numero lo danno i sindacati, ma è certo che quella in corso oggi è l'agitazione più massiccia da decenni in Gran Bretagna. Ad incrociare le braccia sono solo i dipendenti pubblici in guerra con il governo di David Cameron per la riforma delle pensioni, che impone contribuzioni più alte e per un maggiore numero di anni. Sono chiuse il 90% delle scuole pubbliche del Regno, mentre gli aeroporti maggiori da Heathrow a Gatwick reggono. Uffici pubblici, porti e ospedali, con l'eccezione delle emergenze, funzionano invece a singhiozzo. Il governo mantiene la linea dura, precisando che lo sciopero non porterà ad alcuna soluzione dell'avvertenza. Lo ha detto il cancelliere dello scacchiere, George Osborne, da Bruxelles, che ha però invitato le parti a riprendere la trattativa. Avverrà presto, crediamo, ma le speranze di una composizione del difficile contenzioso appaiono davvero scarse. Leonardo Maisano, Radio 24, Sole 24 Ore, Londra. E aumenta ancora la disoccupazione ad ottobre in Italia, un giovane su tre non ha lavoro. Prosegue il momento difficile del mercato del lavoro in Italia e a farne le spese sono soprattutto i giovani. Uno su tre senza lavoro, nonostante la lievissima diminuzione rispetto a settembre per l'Istat, il tasso di disoccupazione giovanile a ottobre infatti si è attestato al 29,2%. Si è impennato quello che riguarda i giovanissimi, 15-24 anni, aumentato di 1,5 punti. Comprendendo tutte le fasce d'età, il tasso di disoccupazione a ottobre è all'8,5%. Sale il numero di disoccupati, pari a 2.134.000, il che significa 53.000 persone in più senza lavoro. La disoccupazione colpisce esclusivamente gli uomini, aumenta al 7,9%, scende invece leggermente tra le donne al 9,4%. Tirando le somme, alla fine il livello di occupazione in Italia è stabile grazie alla crescita di quella femminile. Ma a questi dati si devono aggiungere quelli di Eurostat. Disoccupazione nella zona euro salita nel mese di ottobre al 10,3% su base annua rispetto al 10,2% di settembre, e a livello regionale nell'Unione a 27 non è mai stata così alta negli ultimi 10 anni. In Italia ultima la Sicilia. La migliore è la provincia di Bolzano. La maglia nera, però, della disoccupazione regionale va alla Francia e alla Spagna. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Appello del Papa ai politici di tutto il mondo contro la pena di morte. Esprimo la mia speranza che le vostre decisioni incoraggeranno le iniziative politiche e legislative promosse in un numero crescente di paesi per eliminare la pena di morte. Queste le parole del Papa nella giornata internazionale contro la pena di morte. A Roma questa sera sarà illuminato il Colosseo. Laura Bettini. Era proprio il 30 novembre, ma era il 1786 quando il Granducato di Toscana, primo in Europa, abolì la pena capitale. Oggi più di 60 capitali e circa 1300 città di 81 paesi diversi nel mondo daranno vita a mobilitazioni, marce, sit-in, spettacoli, assemblee pubbliche. Avranno prese di posizione ufficiali, partecipando così anche all'ottava edizione della Giornata Mondiale Città per la Vita, e come simbolo del loro impegno illumineranno ad hoc un monumento. A Roma ovviamente sarà come sempre il Colosseo. 58 paesi mantengono la pena di morte, una ventina di questi nell'ultimo anno hanno inflitto pene capitali, e per questo l'Italia vuol continuare ad essere in prima linea nella lotta per l'abolizione della pena di morte, ha detto il ministro della giustizia Paola Severino, perché ha spiegato è una tutela dei diritti civili e non è affatto una garanzia di sicurezza per i cittadini. E grazie a Laura Bettini. Gettarono in mare almeno 10 profughi durante la traversata fra la Libia e Lampedusa come riti propiziatori per ingraziarsi gli dèi. Adesso la squadra mobile di Agrigento ha arrestato 2 nigeriani e 3 ghanesi, tutti accusati di omicidio plurimo doloso, pluriaggravato dai motivi abietti e futili. L'imbarcazione arrivò a Lampedusa lo scorso 4 agosto con un morto a bordo, mentre altri profughi erano morti per asfissia perché stipati all'interno della stiva. Martedì, cambiamo argomento, il giudice per le indagini preliminari deciderà sul caso Minzolini, intanto il CDA Rai ha dato l'ok ai nuovi tagli. la riduzione delle sedi estere, chiuderanno 7 uffici di corrispondenza, la cessione di immobili non operativi, la nascita di una nuova offerta All News che porterà tra l'altro alla fusione di Televideo e Rai News. Il CDA Rai ha varato un pacchetto di misure che dovrebbero tagliare i costi per 85 milioni di euro. Sul fronte editoriale c'è poi il nodo Minzolini. Martedì il giudice per le indagini preliminari deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio per peculato ai danni della RAI. In 77 pagine di informativa, la Guardia di Finanza ricostruisce dettagliatamente la vicenda della carta di credito aziendale usata indebitamente dal direttore del TG1, quasi quotidianamente e anche nei giorni di ferie. 74.636,90 euro in poco più di un anno la spesa in viaggi. Denaro in parte, circa 65.000 euro, restituito da Minzolini. Ma questo, precisa la Polizia Tributaria, è irrilevante ai fini del reato. La Guardia di Finanza, peraltro, ipotizza anche la truffa aggravata per alcuni casi di doppio rimborso. Il direttore, in pratica, pagava ristoranti con la carta di credito, ma poi chiedeva anche il rimborso della diaria. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ora il nostro appuntamento quotidiano sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. L'azienda X ha ancora qualcosa da raccontare. Dopo averci spiegato come l'evasione fiscale non solo svuoti le casse dello Stato, ma droghi anche il mercato, premiando i furbi e azzoppando gli onesti, l'azienda X ha in serbo per noi un'altra storia tutta italiana. C'è un'azienda nel settore metalmeccanico, chiamiamola azienda Pinco Pallino, che negli anni scorsi ha operato anche negli indotti dell'IVA e dell'ILVA. Questa azienda aveva oltre 400 dipendenti, diciamo aveva, perché dalla primavera del 2011 è sottoposta a procedura di fallimento. L'azienda Pinco Pallino per anni non ha versato i contributi ai lavoratori, tanto che questo debito tributario appare a bilancio. Non bruscolini, ma 20 milioni di contributi non versati. E tuttavia questo non ha impedito all'azienda Pinco Pallino di partecipare alle gare d'appalto con grandi committenti, né di vincerle, anche perché non pagando i contributi poteva permettersi di offrire sconti del 30% e quindi di sbaragliare i concorrenti onesti. L'imprenditore dell'azienda X, che ha lavorato anche in Belgio, è sconfortato e perplesso. Nei paesi civili, ci spiega, la responsabilità del rispetto delle regole ricade anche sul committente. Se in una gara d'appalto si presenta una ditta che ha evaso i contributi dei lavoratori, il committente in Belgio non la sceglie, perché ne risponderebbe in prima persona. In Italia invece no, il committente incassa lo sconto della ditta che evade e chi si è visto, si è visto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Arriva la Fondazione Forma di Milano, una delle più ampie retrospettive mai realizzate in Italia sul grande fotografo statunitense Robert Malpertolp, morto di AIDS nell'89. La direttrice artistica di Forma, Alessandra Mauro, al microfono di Adriana Fracchia. La mostra ripercorre quella che è stata la carriera e l'arte di Robert Malpertolp dall'inizio, da quando cominciò ad utilizzare quasi per gioco una Polaroid, e a ritrovarsi molto in questo mezzo, ad esplorarlo, a cercare di capire in che modo poteva comporre con la fotografia. Lui continua a essere un grandissimo riferimento per la storia della fotografia e in genere per la storia dell'arte, forse proprio anche nella capacità visionaria. La sua grande forza è stata senz'altro quella di fare opere rivoluzionarie, quella di scioccare, in questo senso poi il suo essere completamente all'interno di una New York anni 70, anni 80, che era veramente il centro nevralgico della cultura internazionale, è forse significativo. È stato più volte e secondo me molto giustamente accostato a Michelangelo, è una maniera scultorea di fotografare. In fondo lui diceva: se fossi nato qualche secolo prima magari avrei fatto lo scultore, sono nato adesso e faccio il fotografo. Un saluto da Maria Piera Ceci, prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.